9 in punto. Ed eccoci, di nuovo ben ritrovati da Simone Spezia. Buona giornata, buon settembre, sostanzialmente appena iniziato. Ha ragione chi mi scrive via SMS che quello che è stato tagliato per quanto riguarda le polizze vita e infortuni sono state le detrazioni e non le deduzioni. Vero, chiedo scusa, piccolo errore. Per Paolo Baretta, sottosegretario dell'economia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, io non voglio partire, anche se poi ci arriveremo, non voglio partire dall'IMU, dalla service tax, ecco, diciamo, però voglio partire da questa storia qua, Tra l'altro, lei è un ex sindacalista, quindi immagino che insomma questo provvedimento, a questa parte dei provvedimenti che avete varato avrà fatto particolare attenzione, perché si tratta del reperimento delle risorse per salvaguardare altri 6.500 esodati e, se non erro, appunto per fornire nuova linfa, insomma nuovo denaro alla cassa integrazione. Che cosa è successo? È successo che si è deciso di abbassare le detrazioni sulle polizze vita e infortuni solo di alcune categorie, in realtà ci rientrano solo alcune categorie delle polizze vita ed infortuni, e però dall'anno fiscale 2013, mi perdoni Baretta, ma questa suona come una violazione dello statuto dei contribuenti chiara e netta, perché teoricamente si prevede la non retroattività delle normative tributarie per quanto riguarda appunto le norme tributarie. Ma guardi, ho letto in queste ore, in questi giorni, molte osservazioni, non solo su questo punto ma anche su altri, e ogni fascia sociale, ogni categoria pone giustamente anche le proprie condizioni particolari. Siamo in una situazione di emergenza, bisogna affrontare con coraggio, anche con spirito di collaborazione e senso di responsabilità, i problemi che abbiamo. Se ci mettiamo in un'ottica comprensibile ma non utile, dove non abbiamo una qualche disponibilità, credo che faremo fatica ad uscirne. Allora noi ci siamo trovati, la soluzione per gli esodati non è nemmeno totale, riguarda solo una parte delle persone che hanno, diciamo, vissuto o subito il licenziamento individuale, e questi sono già fuori adesso, non è che hanno la possibilità di fare il ragionamento su retroattività o meno, sono per strada, sono senza stipendio e senza pensione. A loro bisognava dare una prima risposta, ripeto, è ancora parziale. Francamente, insomma, chiediamo un po' di solidarietà a tutte le fasce sociali. Sì, però guardi, mi scusi Baretta, mi scusi, però allora qua mi arriva un SMS di un ascoltatore, dice: famiglia, quattro persone, mi hanno tolto l'IMU, ma come al solito ci guadagnano loro. E vabbè, questa è la sua valutazione. La detrazione sulle assicurazioni sulla vita va man mano scomparendo. In due anni ci perderò 400 euro e con l'IMU pagavo 100 euro. È una detrazione, eh? È una detrazione. Vuol dire che io pago l'assicurazione sulla mia vita e me la detraggo dalle tasse. Cioè bisogna che capiamo bene di cosa stiamo parlando. Cioè non è che è aumentata l'assicurazione o il premio di assicurazione, vuol dire che io mi pago un'assicurazione sulla mia vita e me la posso detrarre dalle tasse. Quello che viene chiesto oggi è che la detrazione sia inferiore, un po' inferiore a quella precedente, non che è un aumento della polizza assicurativa. Non so se è chiaro. Sì, no, ma questo è chiaro. Allora capisco che ma è importante, perché e capisco che l'obiezione può essere: ma comunque in questo modo aumenta la pressione fiscale, perché se riduco le detrazioni è chiaro che mi aumenta indirettamente la pressione fiscale. Però stiamo parlando di detrazioni, cioè di vantaggi fiscali che oggi noi godiamo. Il rapporto che è stato fatto ancora nel precedente governo ci dice che la somma complessiva delle detrazioni e deduzioni ammonta a 250 miliardi di euro, che giustamente i cittadini detraggono ogni anno, per circa 700 voci. Sì. Ora io mi chiedo siamo in grado, Mi scusi sottosegretario, che vada disboscata e razionalizzata questa giungla delle detrazioni e deduzioni non c'è dubbio, e anche quello, devo dire la verità, lo diciamo da anni e non ne arriviamo ad una. Però ripeto, cioè, mi perdoni, se, forse no, se, no, sembra, un po fissato, sembra un po' fissato, fissato. Ah, fa bene. No, però questa questione che riguardi anche quello che dico, volendo me ne può anche azzerare, ok? E secondo questo principio che enuncia di solidarietà nei confronti di questa popolazione di 6.500 persone, che poi naturalmente sono di più, non salvaguarda tutti, eccetera, eccetera, e va bene. Ma perché dal 2013 è questo il problema? Il punto, lo snodo è proprio la retroattività, cioè chi aveva fatto conto in quest'anno fiscale di godere di quella detrazione e da questo stesso anno fiscale non ne gode più, capisce? Questo è lo snodo, insomma, secondo me il problema. Ma questo va a carico della detrazione dei redditi che, del 2013, ma che viene contabilizzata nel 2014. Quindi non è nella dichiarazione dei redditi che si farà la primavera prossima, quindi bisogna tener conto anche di questo, che non viene, diciamo, la riduzione fiscale formalmente, anche se è riferita all'anno in corso, ma avviene il prossimo anno. Come lei sa, noi nel decreto non siamo nemmeno riusciti, per ragioni di copertura, e credo che questo sia stato un limite, a fare la deducibilità dei capannoni industriali, che andava anche essa calcolata nella dichiarazione dei redditi del 2014, quindi anche questo va precisato. Il calcolo che va stimato poi alla fine è nell'anno prossimo. Poi su questo tema ci torniamo, perché questo è un altro tema centrale. Ho visto che, insomma, sia lei sia il viceministro Fassina vi state battendo molto perché poi all'interno della legge di stabilità ritorni la, in questo caso, deduzione, insomma, per quanto riguarda l'IMU per capannoni, immobili industriali, immobili strumentali, diciamo così, anche per i professionisti. Intanto saluto Carlo Stagnaro, direttore di ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni, buongiorno. Buongiorno. Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore. Buongiorno Fabrizio, bentornato. Ciao, buongiorno. Buongiorno, bentornato ai nostri microfoni. Stagnaro, che cosa dice su questa questione nello specifico? Poi arriveremo all'IMU, sulla cui abolizione io so che lei ha una posizione molto critica. Però su questa questione qua. Ma credo anch'io che vi siano due problemi grossi. Uno è quello che lei ha toccato della retroattività. È vero quello che diceva il sottosegretario Baretta sul fatto che l'intervento va a valere sulla dichiarazione dei redditi 2014, ma si riferisce comunque a decisioni che sono state prese a inizio 2013, cioè ci saranno delle persone che, se avessero saputo questa cosa, magari non avrebbero stipulato una polizza vita. Il punto della retroattività significa che ciascuno deve essere messo nelle condizioni di prendere decisioni disponendo di tutta l'informazione necessaria. Evidentemente qui l'informazione è cambiata nel tempo ed è cambiata in un momento in cui è impossibile tornare indietro e cambiare le proprie decisioni. Quindi, come dire, il profilo della retroattività, grande o piccolo che sia, c'è ed è grave. Al di là del fatto specifico, è grave perché la retroattività è la norma, a dispetto dello statuto del contribuente, che citava lei, che viene sistematicamente derogato. Per cui a questo punto io chiedo, come dire, sottosegretario Baretta, visto che lui è l'interlocutore in questo momento, abolitelo e ci togliete il problema. Almeno, come dire, è un gesto di onestà e trasparenza. Il secondo punto per il quale io sono critico su questa manovra è che il nostro è un paese caratterizzato da un mercato finanziario asfittico e da un'eccessiva dipendenza dei cittadini rispetto al welfare state. Il tentativo di sviluppare delle soluzioni private che sono a zero onere per lo Stato o a basso onere per lo Stato passa anche per una maggiore sofisticazione del mercato finanziario assicurativo. È chiaro che un intervento come questo, come dire, crea difficoltà in tale prospettiva, riporta il paese indietro, ci fa perdere del tempo guadagnato. Questo per quanto riguarda appunto le polizze vita. Voglio aprire il capitolo IMU, il capitolo soprattutto quello che riguarda quello che dicevamo, la questione capannoni e immobili strumentali proprio con Fabrizio Forché, perché stavo proprio il Sole 24 Ore a tirar fuori con molta energia nell'edizione di sabato, se non erro, di domenica, Fabrizio, insomma nell'edizione di sabato, nell'edizione di sabato, che c'era questo pasticcio, insomma, no? Per cui saltate le coperture, saltano le deduzioni per imprenditori e professionisti. Ma devo dire in questo caso al sottosegretario Baretta va tutta la nostra solidarietà, perché in realtà questo governo si trova ad essere schiavo di una politica che costringe anche i tecnici del Ministero dell'Economia a continue retromarce, a continui ripensamenti, a continue revisioni di provvedimenti già scritti. Il decreto sull'IMU era noto nella sua versione, che era stata valida poi fino a venerdì, era già noto almeno da martedì, l'abbiamo riportato su tutti i giornali, e in quel decreto c'era l'imposizione IRPEF sulle case sfitte. Improvvisamente venerdì, quando alcuni giornali in particolare hanno sollevato la questione, c'è stata una retromarcia politica da una parte precisa della maggioranza, peraltro, che ha fatto sì che quella norma che copriva gran parte del decreto IMU per il 2014 dovesse essere esclusa improvvisamente dal decreto. A quel punto i tecnici dell'economia si sono dovuti mettere in poche ore a riscrivere le coperture del decreto, e quindi sono saltate norme importanti come questa, per esempio, appunto, della riducibilità per le imprese dell'IMU sui capannoni. Ora è proprio un modo di legiferare che sembra assurdo, cioè tu approvi in Consiglio dei Ministri una norma con certe coperture e poi nei giorni successivi la maggioranza continua a montare e smontare quella norma con effetti paradossali e con effetti penalizzanti in questo caso le imprese. Baretta, questo metodo quanto può reggere? Perché sinceramente no, non è il primo episodio al quale assistiamo di questo tipo. Quanto può reggere, in tutta poco. Sincerità? Poco. Poco perché le osservazioni che ha fatto Forché sono assolutamente logiche, e la qualità delle leggi dipende molto anche da come si affronta. Però io penso che stiamo facendo tutti, diciamo in generale, un errore che porta anche a alcuni di questi effetti, che stiamo tutti discutendo di un problema alla volta. Noi abbiamo sul tavolo da qui a 3 mesi, a 2 mesi, e lo sapevamo anche prima, ed è per questo che il dibattito politico ha bisogno di essere in qualche modo intensificato sul merito e non sulle bandiere al vento. Abbiamo una serie di scadenze che hanno tutte bisogno di copertura. Pensi, tra un mese noi abbiamo la seconda rata dell'IMU, l'IVA, un ulteriore pezzo di protezione sociale, perché abbiamo finanziato per 500 euro la 500, cassa integrazione. 500 euro, spero di no. No, infatti vedi il lapsus delle volte rivelano. 500 milioni di euro la cassa integrazione guadagni, ma è solo una tranche. Abbiamo detto che gli esodati sono solo una parte, e poi a metà ottobre c'è la legge di stabilità, nella quale bisognerà fare finalmente le scelte per il 2014. Baretta, quanti soldi ci servono entro fine mese? Entro fine mese ci serve 1 miliardo per l'IVA, per evitare l'aumento dell'IVA. Ma io E ci si riuscirà, secondo lei? Bisogna far di tutto, perché l'effetto dell'aumento dell'IVA immediato avrebbe, diciamo, complicazioni, però non si può evitare di aumentarla per sempre. L'Europa ci chiede di spostare le tasse dal peso sulle persone alle cose, quindi semmai bisognerebbe ridurre l'imposizione fiscale sul lavoro e sull'impresa, e da questo punto di vista la deducibilità va assolutamente fatta. Poi ci servono, parlo di quelli di quest'anno, poi c'è la parte sul prossimo anno, ci servono questi altri 2 miliardi per coprire la seconda rata dell'IMU, e poi penso un altro miliardo tra cassa integrazione. Ricordo che ci sono anche le missioni all'estero che vanno finanziate, sperando che non si aggiunga altre emergenze internazionali. Per ora già quelle sono 300-400 milioni, quindi è un pacchetto importante. Allora non si riesce ad affrontarlo sfogliando i petali uno alla volta, bisogna avere una visione generale e decidere politicamente le priorità. Per questo io le dico che dura poco. Dura poco il governo, dice. No, no, dura poco questo metodo. Il governo può durare, ma deve fare un chiarimento politico al suo interno. La mia impressione personale è che l'IVA aveva una congiuntura e anche una strettoia particolare legata alle condizioni politiche, l'IMU, scusi. Adesso penso che noi dovremmo, anche il Ministero dell'Economia dovremmo porre con determinazione e con forza la questione delle priorità, perché come ha detto Forché non si trova 1,5 miliardi in 20 minuti, figuriamoci 4,5 miliardi in un mese. Esatto. sarà complicato e quindi bisogna dedicarsi da subito con grande trasparenza e anche, come dicevamo anche sul problema precedente, stabilendo bene anche che superiamo un pezzo di corporativismi che oggi tutti abbiamo, nel senso che e purtroppo è un tema arrivato, per quella delle deduzioni e detrazioni è un tema arrivato al capolinea, ma come la spending review, come potremmo trovare soldi, visto che non c'è spazio per tasse, ovviamente, visto che sono già troppe, se non affrontiamo la questione dei tagli e della riorganizzazione complessiva della spesa. Brevemente, Tommaso da Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Prego. Ma io volevo dire al sottosegretario Beretta che quando si tratta di chiedere sacrifici sono pronti tutti, quando si tratta di tagliare le spese, la Corte Costituzionale ha detto che era illegittimo tagliare gli stipendi dei magistrati sopra una certa cifra, oppure le pensioni d'oro, per cui ritengo che vada fatto un discorso soprattutto sul taglio delle spese e non parlare di corporazioni quando le corporazioni impediscono questo. Grazie Tommaso, appunto quello che diceva Baretta, no? I tagli di spesa, devo dire la verità, io leggendo le cose, ascoltando anche in questi giorni, no? quel che si scrive, l'idea che giacciano nel cassetto del Ministero dell'Economia una quantità di rapporti sulla spesa pubblica ormai enorme, insomma, a partire dal libro bianco di Padoa-Schioppa, ma passando anche per l'ultimo rapporto Giarda, e si stia pensando a nuovi tagli lineari, devo dire mi sconvolge, ecco. Baretta. Sì, no, ha perfettamente ragione, tant'è che noi i tagli dell'altro giorno sono, diciamo, semilineari, nel senso che non sono a pioggia su tutti i ministeri, sono stati individuati su alcuni ministeri e per esempio è stata esclusa la scuola, finalmente, per fortuna, da qualsiasi taglio. In Italia le spese sulla scuola sono quelle sulle quali si è speso meno da 20 anni a questa parte, quindi, cioè, però no, bisogna chiuderlo definitivamente, ma per fare queste operazioni che stiamo dicendo ci vuole una sensibilità collettiva ed è il salto di qualità che va chiesto. Certo, in una condizione di instabilità politica costante nella quale si trova il governo, questo è ulteriormente accentuato come problema. Abbiamo spazio ancora con lei, perché poi so che ci deve salutare, rimarranno con noi, sì. Carlo Stagnaro e Fabrizio Forché, per, se vuole, una battuta, un autorevole commentatore, un autorevole collega, scriveva l'altro giorno su Twitter, insomma, alla fine sta storia dell'IMU è una sola, alla romana, insomma, è una sola oppure no, perché l'impressione è che insomma, con la service tax in arrivo, insomma, la mancata deducibilità per gli immobili strumentali, eccetera, eccetera, un po' la sensazione della sola ce l'abbiamo. No, penso di no, perché intanto la deducibilità va fatta, io ho detto nella legge di stabilità, ho letto che il collega Fassina ha detto anche nel decreto ministeriale in discussione, e mi pare una buona idea anche quella, comunque entro un paio di mesi la deducibilità ha fatto assolutamente, non c'è discussione. Poi la service tax può essere davvero una riforma che mette un po' d'ordine e dà anche più spazio. No, perché un po' di paura, Baretta, l'ultimo grande accorpamento fiscale che ricordiamo è quello che ha portato all'IRAP, quindi sa, un po' di paura, sì, ce l'abbiamo tutti. È legittimo, ma questa la service tax abolisce due tasse, abolisce la TARES, che è molto contestata anche giustamente dai comuni, ma abolisce anche l'IMU sulla prima casa, quindi siamo di fronte a una semplificazione da un lato. Dopodiché abbiamo detto che la discuteremo proprio con i comuni, che sono i soggetti principali, quindi diciamo nessun entusiasmo, ma non parlerei di sola. Grazie Pierpaolo Baretta, buona giornata. Nove in punto. E allora, consentitemela questa piccola deviazione dal tema fiscale. Che cosa è successo? È successo, ricorderete, abbiamo ospitato nei mesi scorsi Giorgio Fidenato, leader del Movimento Libertario, agricoltore che ha ricevuto l'ok dalla Corte di Giustizia Europea, in forza di una sentenza della Corte di Giustizia Europea, ha seminato il suo campo con degli OGM. Ebbene, ieri il suo campo è stato parzialmente vandalizzato. Non commenterò il dopo, ma sentite il delirio delle parole d'ordine via, trovate su YouTube, perché hanno anche postato un video quelli che l'hanno fatto, sentite. La proprietà privata è il problema grosso è che la proprietà privata ci toglierà la sovranità alimentare, ci toglierà la possibilità di avere i nostri semi e di perseguire le nostre coltivazioni. Quindi io vi invito, facciamo tutti un passo all'interno e depositiamo la zolla. E mettiamo delle ste zolle. Zolle di terra pura contro gli OGM. Giuseppe da Pavia, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Seguo la trasmissione. Mi sembra che non ci siamo assolutamente, i politici sono tutti fuori. Adesso qui non si tratta di fare la classica di tutte le erbe un fascio, ma qui bisognerebbe fare una legge di tre righe. La prima dice non si possono più aumentare le tasse, ma complessivamente parlando, no che poi il comune mette la tassa sul reddito, eccetera, eccetera. E due, il debito pubblico deve calare del 2% all'anno. Fine. Il resto sono tutte chiacchiere. Questa gente qua deve andare fuori dalle palle, perché qui veramente adesso ancora tra i precari ne assumeremo non so quanti e il debito pubblico salirà ancora. Non c'è, cioè, è impossibile, qui ci vuole il buon padre di famiglia, non ci vuole mica un genio. Lì c'è una massa di ladri che nel gran girone delle spese, appunto 800 miliardi, gozzovigliano alla grande, è una vera pasta. Allora, Giuseppe, comprendo lo sfogo, io rifuggo dalle soluzioni semplicistiche, dalle idee semplicistiche, perché siamo in un mondo complesso, le cose vanno affrontate anche con un certo grado di attenzione e di complessità. Detto ciò, insomma, comprendo lo sfogo. Allora, Fabrizio Forché, 4 miliardi e mezzo, ci ha detto Baretta, entro il mese, solamente entro il mese, senza contare naturalmente la legge di stabilità. Qua non se ne esce, ho l'impressione. No, non se ne esce anche perché sono fatti a fine anno. Cioè, il grande problema è quello, se tu devi trovare 4 miliardi non avendo davanti un anno sul quale incidere, ma dovendo incidere su pochi mesi finali dell'anno, se non andando poi appunto su norme retroattive come in effetti è stato fatto. Ora, questo è l'esito di un governo che per troppo a lungo ha troppo rinviato. Noi abbiamo sollevato sul Sole 24 Ore, Radio 24, tu sei stato anche tu credo a promuoverlo, l'hashtag famoso slow gov, lo scrivemmo 4-5 mesi fa. Ebbene, è esattamente questo quello che è avvenuto. Questo governo è andato, ha rinviato troppo, ha agito troppo lentamente ed è stato ostaggio troppo a lungo di questa discussione sull'IMU e sull'IVA. Ha discusso solo di IMU ed IVA, quasi solo di IMU ed IVA, e ha sempre rinviato tra l'altro gli interventi risolutivi su IMU e IVA. E ora ci troviamo alla fine dell'anno a dover trovare 4 miliardi che ancora una volta riguardano l'IMU e l'IVA, mentre invece il paese avrebbe bisogno di ben altro, evidentemente avrebbe bisogno di agganciare una ripresa che si profila in maniera tra l'altro molto incerta a livello europeo, avrebbe bisogno di interventi radicali, sono stati rinviati alla legge di stabilità, ora speriamo che la legge di stabilità, mentre i tecnici dell'economia dovranno pure occuparsi dei 4 miliardi da trovare sull'IMU e sull'IVA, almeno spero che con la legge di stabilità si affronteranno i nodi veri di questo paese, che sono quelli a cui si accennava, devo dire correttamente anche Baretta, accennavate voi, cuneo fiscale, tagli di spesa, riordino delle agevolazioni, rilancio degli investimenti, accesso al credito delle imprese. Insomma, io mi chiedo quando è che ci occupiamo di questi nodi veri? Stagnaro, lei tra l'altro è uno che sostiene, lo dicevamo prima, che l'IMU sulla prima casa non andava tolta, l'IMU sulla prima casa non va tolta, e ha fatto tra l'altro un post sul, se non sbaglio, sul sito dell'Istituto Bruno Leoni, del quale è direttore di ricerca e studi, nel quale cita la vaselina. Non ho capito bene, me la spiega questa cosa qua? No, la cosa della vaselina nasce da uno scambio di battute avuto su Twitter con una persona, il quale, a valle della discussione, mi ha concluso dicendo: coi soldi dell'IMU compreremo la vaselina. E a me era piaciuta la battuta e l'avevo recuperata come titolo del post, perché il senso del post è un po' quello. La mia sensazione, per, come diceva lei prima, al sottosegretario Baretta, è che l'operazione sull'IMU si risolverà in una sola, e si risolverà in una sola per tre ragioni distinte, sinteticamente. La prima è che il Premier stesso ha detto che l'operazione è a saldi invariati, quindi non siamo in presenza di una riduzione delle imposte, siamo in presenza di una redistribuzione delle imposte, di un ridisegno del sistema tributario. Quando le imposte cambiano a saldi invariati, normalmente aumentano, come dire, come regola empirica osservata negli anni scorsi. Secondo tema è di natura distributiva. Noi sappiamo che l'IMU, pur avendo un'aliquota piatta, l'IMU sulla prima casa ha avuto un effetto fortemente progressivo. Il 30% più ricco della popolazione ha pagato la metà del gettito IMU. Questo significa che abolire l'IMU sulla prima casa, spostandola su seconde case o su altri immobili o su altre basi imponibili, molto probabilmente avrà un effetto regressivo. Noi trasferiremo soldi dai poveri ai ricchi, non solo dai poveri ai ricchi, visto che i proprietari di casa sono mediamente più anziani, trasferiremo soldi dai poveri ai ricchi e dai giovani ai vecchi. E questo dal punto di vista redistributivo, in un paese come l'Italia, che ha i problemi dell'Italia, mi pare un'operazione assolutamente scellerata. Terzo punto, la nuova service tax dovrà andare a remunerare contemporaneamente, seppure in maniera articolata e complessa, tanto servizi cosiddetti indivisibili, illuminazione stradale, manutenzione delle strade, eccetera, quanto servizi a domanda individuale, in particolare i rifiuti. Ora, è buona norma tenere separate queste due cose attraverso tributi di natura diversa, perché il primo inevitabilmente i servizi indivisibili vanno gestiti, come dire, unitariamente. I servizi a domanda individuale, come i rifiuti, vanno invece, possono essere gestiti attraverso più una tariffa che una tassa, cioè devono, il prezzo che il cittadino paga deve riflettere non solo i costi generali del servizio, i quali devono essere efficienti, eccetera, eccetera, ma deve soprattutto riflettere quanto io usufruisco di quel servizio, quanti rifiuti io produco. Se affogo queste due cose all'interno di un unico tributo, è molto probabile, ancora una volta, che dal punto di vista distributivo creerò delle situazioni poco piacevoli. Per esempio, chi produce pochi rifiuti o chi differenzia pagherà relativamente di più per compensare la maggior produzione di rifiuti o la produzione di rifiuti indifferenziati da parte di altri. Certo. Benedetto da Padova, buongiorno. Buongiorno. Prego. Senta, allora, sentivo Baretta, mi sembra che si chiami Baretta il sottosegretario. Sì, che avete... Pierpaolo Baretta, Pierpaolo Baretta, esatto, prego. Sì. Lui si chiedeva dove trovare i soldi per dare copertura al mancato introito dell'IMU. Volevo dargli un suggerimento. Tenga presente il sottosegretario Baretta che la spesa pubblica ammonta a oltre il 50% del PIL, vale a dire 800 miliardi di euro. Per trovare quindi copertura ai 4 miliardi di mancato introito IMU, basterebbe tagliare i costi della spesa basterebbe tagliare la spesa pubblica dello 0,5%, che rappresenta il nulla rispetto ai sacrifici che vengono richiesti alle famiglie. Detto questo, siccome io sono allergico al fetore della ipocrisia, volevo chiedere a Baretta se non si vergogna di dire queste minchiate alla radio. Guardi, purtroppo Baretta non c'è più, quindi non le può rispondere. Senti, anche Luigi da Vicenza. Prego, Luigi. Sì, io volevo solo sapere se la tassa sui rifiuti verrà ancora calcolata sui metri quadri o sul numero delle persone che fanno i rifiuti effettivamente, insomma. Se non sbaglio, sul numero delle persone, se non sbaglio, Fabrizio, forché no? No, questo è ancora tutto da determinare. In realtà il Premier ha fatto riferimento al fatto che la nuova tassa terrà conto del numero dei figli, quindi dell'ampiezza dei nuclei familiari, quindi dovrebbe essere un po' più a favore, diciamo, di chi ha nuclei familiari ampi e quindi molti figli. Ok, vedremo che cosa succederà anche qua. Giusi da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Niente, si parla tanto di come recuperare questi 4 miliardi che mancheranno dall'emissione dell'IMU, che poi alla fine hanno solamente cambiato il nome. Ma a seguire il suggerimento che ha dato il governatore Zaia, quello di applicare i costi standard alla sanità anche alle altre regioni, è una cosa proprio così impossibile. Perché non si vuole applicare una cosa così semplice che non andrebbe a intaccare ancor di più le tasse ai cittadini che stanno lavorando e che non ce la fanno più? Perché non la vogliono applicare sta cosa? Chi ci sta guadagnando dietro queste cose? Poi guardi Giusi, in tutta sincerità, non è solo Zaia che propone questa cosa, ma lo si propone anche banalmente alle colonne del Sole 24 Ore, non perché giochiamo in casa da tempo immemorabile. È detta francamente una cosa, ne abbiamo già parlato in trasmissione, una cosa sulla quale divento pazzo anch'io, cioè non riesco a capire come mai questa cosa, della quale parliamo da anni, non si riesca a mettere in atto. 9 in punto. Ed eccoci di nuovo. Allora, ci scrivete anche qualche sms, leggiamo, va, anche se sapete non li amo molto, preferisco i social network, danno un filo meno di anonimato, insomma, a differenza di quello che si crede. Comunque, ci scrivete, ma i 4 senatori erano necessari, ladri, sì, ma insomma non saranno i 4 senatori che cambieranno le cose, così come non cambieranno le cose i 2 milioni di euro di stipendi di Mastrapasqua e di Befera. Vedo ancora molto sentimento anticasta, tra virgolette, che gira. C'è chi propone di legalizzare la prostituzione per incamerare nuove entrate fiscali. Oddio, insomma, è una cosa che ogni tanto rientra nel dibattito. Forse prima ci sarà da tagliare un po' di spesa pubblica. Fabrizio Forché, allora, a me c'è quella roba che ho detto e mi fa impazzire ogni volta, ed è il commento dell'ascoltatrice, no, che diceva: ma insomma, com'è possibile che non riusciamo ad applicare i costi standard? È una cosa della quale parliamo da anni, sulla quale il Sole 24 Ore ha fatto delle battaglie, visto che parliamo di recupero di risorse, insomma. Ma come mai non si riesce? Ma guarda, non si riesce secondo me per due ragioni fondamentali. Una, dobbiamo tener conto della complessità delle riforme da attuare in un sistema così farraginoso come la pubblica amministrazione italiana. Questo, quando noi ragioniamo sulle riforme, bisogna sempre tenerne conto. Noi oggi siamo inadeguati come struttura pubblica e come capacità dei nostri dirigenti pubblici ad attuare grandi riforme. Abbiamo un sistema che è diventato talmente complesso e talmente fuori controllo che abbiamo perso la capacità di incidere anche proprio a livello tecnico con grandi riforme per rimettere, diciamo, il sistema sulla corretta via. Quindi c'è questo fattore e poi c'è il fattore della politica. Tu giustamente lo sottolineavi prima, attraverso la sanità passa gran parte di quello che è l'interazione della politica con gli affari, col finanziamento. Insomma, se tu vedi come sono gestite le ASL ancora oggi nel Mezzogiorno, il servizio sanitario è di fatto non garantito in gran parte del paese. Qui non è solo un problema di livelli di spesa, che poi magari sono in linea con quello degli altri paesi europei, ma che a quei livelli di spesa non corrisponde un servizio minimamente decente in molte regioni italiane. Magari in Lombardia e Toscana c'è un livello sufficiente, ma in tutto il Mezzogiorno appunto non c'è praticamente servizio sanitario. Quindi c'è uno spreco di risorse al di là della cattiva gestione delle risorse stesse, e la spesa appunto continua ad aumentare. Fammelo dire, io cito sempre un dato: quando parliamo degli 800 milioni ci dimentichiamo come si è arrivati a 800 milioni. 10 anni fa eravamo a 620-630 miliardi di spesa pubblica, siamo saliti a 800 in un decennio che doveva essere già un decennio di controllo della spesa pubblica e di rigore sui conti pubblici. Ma se noi facendo rigore sui conti pubblici abbiamo aumentato la spesa pubblica da 620 miliardi a 800 miliardi, cosa facciamo quando invece facciamo politiche espansive? Antonio, da Foggia, buongiorno. Pronto, salve, buongiorno. Volevo parlare di un argomento di cui vi non parlate quasi mai, riguarda il fiscal compact. Mi chiedevo come facciamo a trovare questi 4 miliardi che non si trovano in questi mesi e tra due anni alle porte il fiscal compact, verremo tassati, faremo la fine della Grecia? È una buona domanda che ci viene posta anche da altri ascoltatori che mi scrivono su Facebook e su Twitter. Sentiamo anche brevemente Ugo da Firenze e poi andiamo su Stagnaro. Prego Ugo, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie per darmi questa opportunità. Io volevo dire una cosa, qui ci stiamo a perdere molto tempo. Noi abbiamo una classe politica che ormai la conosciamo benissimo. Non so, vogliamo fare la fine della Grecia? Sembra che questi tirino la corda più che possono. Allora noi abbiamo da cercare 4 miliardi. Noi da tempo sappiamo che c'è la legge Mosca, 13 miliardi l'anno, per persone che non hanno fatto versamenti, va bene, che hanno più pensioni, vogliamo fare un taglietto, sappiamo dove tagliare. Qui dobbiamo creare un movimento che dia una spinta. Qui purtroppo queste persone si comportano da irresponsabili, vogliono in qualche modo estenuare le persone, vogliono portare all'esasperazione, poi non vogliono essere responsabili di ciò che accade. Io non lo so, questo è un paese che non siamo fuori da ogni senso logico. È questo che io sto chiedendo, dico io. Qui sappiamo benissimo come trovare i soldi, sappiamo le tasse, ce le tolgono, poi ne metteranno delle altre e di conseguenza così è tutto una specie di giochetto di società. Ma questi signori lo vanno a fare da un'altra parte. Un ciclo infinito, cioè che suggerisce su Twitter, mi suggerisce Nicola Pana, che a Roma ci deve essere qualche ufficio studi che inventa nuovi e fantasiosi metodi per spillarci soldi, dice degli artisti. Ma insomma, comunque. Stagnaro, tra due anni il fiscal compact, Speriamo, nel senso che tutti i tentativi di contenere la spesa pubblica gestiti unicamente attraverso la buona volontà dei nostri politici sono andati verso un clamoroso fallimento, come ricordava Fabrizio Forché poco fa, e quindi non resta che augurarsi che il vincolo esterno questa volta funzioni meglio di quanto abbia funzionato in passato, quando pure ha contribuito a non avere un'escalation ancora più elevata. Io citerei a mettere due punti fissi. Uno è sull'IVA, per tornare alle parole del sottosegretario Baretta in apertura della trasmissione, mi spiace ovviamente che lui non sia qua. Io credo che qualunque intervento di riduzione delle tasse debba riguardare principalmente l'imposizione sul lavoro e sull'impresa, quindi IRAP e IRPEF, ma credo anche che sia assolutamente fondamentale da parte dei nostri politici l'impegno per una volta nella vita credibile a non aumentare ulteriormente le tasse. Non possiamo più parlare semplicemente di spostare poste di imposizione fiscale da un contribuente all'altro, dobbiamo tagliare le tasse e il modo migliore di tagliarle è impegnarsi a non aumentarle, tanto per cominciare. Il secondo punto è relativamente alla spesa pubblica. Ha perfettamente ragione il sottosegretario, mi spiace di utilizzare lui come controparte, ma c'era lui, ha fatto lui queste dichiarazioni nel dire che non si trovano 1 miliardo, 4 miliardi o 10 miliardi dall'oggi al domani, ma sono almeno 3 anni che stiamo dicendo che dall'oggi al domani non si trovano. E in 3 anni un po' di suggerimenti, un po' di idee su dove trovarli l'abbiamo tirati fuori. Ne cito 3. Riduzione dei sussidi alle imprese, rapporto 20 Giavazzi. 20 secondi, Stagnaro, che siamo in chiusura. Riduzione dei sussidi alle imprese, rapporto Giavazzi, abolizione delle province e di altri enti, ridisegno del sistema pensionistico in relazione alle pensioni di elevata entità. E oggettivamente qui un altro punto di equità redistributiva dobbiamo porcelo prima o poi. Grazie a Carlo Stagnaro, grazie a Fabrizio Forché per essere stati con noi, grazie come sempre ad Alessandro Marco Tulli e Laura Faggin in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto, grazie anche a chi ha chiamato e non sono riuscito a far intervenire in diretta. La nostra pagina Facebook www.facebook.com/9in.radio24, il mio account Twitter Simone Spezia, mi trovate anche là. Ci risentiamo naturalmente domani dopo il GR delle 9. ricordati! Mancano 28 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente.